senza dubbio c'erano tutti gli elementi perché si arrivasse a una pronuncia che mette in evidenza gli aspetti critici. Io personalmente aderisco completamente allo spirito e alla lettura che hanno fatto i giudici della Corte Costituzionale, senza nessuna riserva. In sostanza essi hanno definito la legge in sé dell'insieme non incostituzionale, ma alcuni passaggi della stessa assolutamente incostituzionali, e quindi hanno rinviato al Parlamento. Mi sembra una procedura assolutamente corretta. È vero che la maggioranza del Parlamento è di centrodestra ed ha accettato nel suo programma l'autonomia regionale differenziata, ma è altrettanto vero che neanche il Parlamento può andare contro la Costituzione, quindi saranno chiamati a legiferare in maniera congrua con la Costituzione e sostanzialmente con la pronuncia della Corte Costituzionale. Gli elementi ritenuti illegittimi, alcuni sono molto tecnici, quindi insomma non ci avventuriamo, anche perché ci vorrebbe molto tempo, però insomma riguardano ad esempio i livelli essenziali di prestazioni, e anche a un certo punto in un passaggio si legge che si rischia con questo impianto di indebolire l'unità nazionale, che è un po' quello che dicevate. Su quest'ultimo punto io sono molto drastico: si distrugge la Repubblica Italiana e l'unità dello Stato italiano, e si riporta l'Italia addirittura a una dimensione pre-risorgimentale, cioè la si riporta indietro all'inizio dell'Ottocento. Questo è il mio giudizio. In una situazione mondiale assolutamente preoccupante, quindi in una situazione di enorme debolezza, di esposizione totale dei lavoratori e delle asse classi e delle altre classi sociali popolari agli appetiti della finanza e della nuova imprenditoria internazionale, Musk insegna. Questo è un pericolo enorme che si corre, non un pericolo, cioè se l'autonomia regionale differenziata va avanti, l'Italia esce distrutta. Teniamo presente che questi fenomeni non nascono in un momento zero, ma sono come i fiumi calcici che lavorano piano piano, poi alla fine ciò che c'è sopra crolla. Ecco, quello che c'è sopra c'è la Repubblica Italiana che nasce sullo Stato italiano che è stato costituito nell'Ottocento. Per quanto riguarda invece i LEA, io ovviamente non posso dimenticare di essere medico, di aver fatto battaglie contro l'autonomia differenziata con questa angolazione specifica. I LEA sono uno strumento molto raffinato, molto difficile da gestire e anche molto difficile da applicare, per cui sulla base dell'esperienza della sanità possiamo affermare che quando siano congrui, e cioè non viziati da obsolescenza rispetto allo sviluppo dei bisogni della popolazione e allo sviluppo tecnologico, di fatto vengono poi non attuati nelle singole regioni. Quindi il passaggio della Corte sui LEA è assolutamente centrale, ma noi sappiamo poi che nella prassi politico-amministrativa, quando anche vengono adottati, normalmente vengono non attuati. È la situazione della sanità in Italia. Questa della Corte Costituzionale è una prima picconata, diciamo così, a questa legge. Ora si attende il vaglio prima della Cassazione per le firme e poi ancora della Corte Costituzionale sul quesito dei referendum. Voi confidate che venga ammesso? Io non amo fare previsioni, francamente. Penso che dobbiamo batterci perché il referendum sia ammesso, appunto, e perché sia attuato, ecco, perché dobbiamo assolutamente riportare la politica a livello della popolazione, e solo la popolazione a questo punto può bloccare una deriva, come dicevo prima, non solo anticostituzionale ma addirittura anti-italiana, che purtroppo il mondo dei partiti, cioè il centrodestra e anche il centrosinistra, non dimentichiamo che la regione Emilia-Romagna tramite il presidente Bonaccini con le sue maggioranze avanzò la richiesta della mia regione differenziata, solo il popolo italiano e la Costituzione sono i due argini che per adesso una regge e l'altra speriamo che si pronunci a rinforzo della prima.